24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Alino, sai cosa? Adesso scrivo una lettera solo per lamentarmi della tua trasmissione. Scrivo Squinzi! Va bene, va bene. No, sei un cioccapiatti. Poi lo scrivo, glielo scrivo Squinzi. Eccoci qua, eccoci, buongiorno cioccapiatti di tutta Italia, unitevi come grida Alberto Forchielli, cioccapiatti, questo siamo diventati, approfittando forse del ponte, la lettera non è ancora arrivata e quindi nel frattempo io sono sempre qui, alle 6.32 minuti, voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, sempre noi qui a farvi compagnia in diretta. Che dire, siamo qui fino alle 9 come di consueto e può aprire subito il nostro Parlamento. Parlamento molto attivo, eh? Sì, perché sono feste. Feste, ma si lavora, nel senso che si sta tentando di formare un nuovo governo e allora il Parlamento è ancora aperto, sempre. Voglio bere tanto da tornare storto come il dottor House. Allora. Siamo qui nel nostro Parlamento oggi, in questo venerdì 26 aprile, con Luisella Costa Magna, ben ritrovata, eccoci, buongiorno a te e a tutti voi. Hai celebrato il 25 aprile con... Sì, sempre, rigorosamente. Per carità, non è morto, come dice Beppe Grillo. Ma no. Guarda, con la cosa di Beppe Grillo sono abbastanza sconvolta. Sì. Nel senso che Beppe Grillo con quel post dice l'esatto opposto. È un omaggio al 25 aprile, il fatto di dire di fronte a se non si rispetta la Costituzione, tradire la Costituzione, vuol dire uccidere il 25 aprile, quindi è un messaggio di assoluto rispetto per il 25 certo, però aprile. Per lui il sottotesto è che non è stata rispettata la Costituzione con questo golpettino. Però nel dire che lui sta dicendo che il 25 aprile è morto, lo dice rispettando la festa della liberazione, quindi mi sembra che sia ormai diventata una cartina al tornasole grillo della stupidità che regna nel nostro paese, perché capire quelle parole è veramente allucinante. Vabbè, comunque insomma, voglio salutare anche Paolo Del Debbio, buongiorno e ben ritrovato. Come va la sfida con Lilli Gruber? Bene, tutto bene. Del Debbio prende sempre le cose così, ma sì, mi chiedono di fare questa cosa, la faccio. Vabbè. Si vedrà. Festeggiato il 25 aprile Del Debbio? Sì, ho lavorato. Ah, ecco, appunto. Sì, eravamo in onda ieri sera. Ecco, sì, no, ho visto, ma quindi altro che, insomma, si festeggia così. Mi sono liberato, sì. Mi sono liberato. Vabbè, allora il punto anche dai giornali è al quinto giorno Enrico Letta si riposò, perché oggi è il giorno delle riflessioni. Al quinto giorno Enrico Letta riflette, mi piace questa. Oggi è il giorno delle riflessioni, torna Berlusconi dall'America, tra poco ci sono delle dichiarazioni, vi leggo dai giornali, che ha già detto Sacco Manni no all'economia, Berlusconi, poi ha detto piuttosto mettiamo quell'incazzoso di Brunetta, che però è molto intelligente, ma Luisella ha detto ma se volessero fare le cose per bene, Berlusconi ha detto sapete chi dovrebbero mettere all'economia? Sai chi dovrebbero mettere all'economia? Sì. Me. Certo. Ha detto dovrebbero mettere me, ma non lo faranno, allora, però se volessero fare le cose per bene dovrebbero mettere me all'economia, che pensimi, è tornato. Ma io come dargli torto? Cioè, le due suggestioni che ho, la prima è che dal nulla sarà più come prima, siamo al tutto sarà come prima, per cui ci ritroviamo un governo di larghe intese, PD, PDL, centro, esattamente come il governo Monti, alla faccia del rinnovamento, alla faccia di quello che hanno indicato chiaramente gli italiani, tutto questo è stato bocciato sonoramente nelle elezioni, e come dare torto a Berlusconi, visto che con l'uscita di Selma, infatti Berlusconi in questo momento ha la maggioranza di questa ipotesi di governo di larghe intese, quindi fa bene a rivendicare il rispetto dei punti del suo programma e fa bene a richiedere posti, perché sì, nei fatti ha lui la maggioranza. Ma che dovrebbe fare? Cioè, se siamo arrivati a questo, non so, chiederei anche a Del Debbio, se siamo arrivati a PD, sì, PDL, è giusto e legittimo che uno faccia delle richieste, insomma, dico, a sto punto mettete queste persone o no? Come fare? Cioè, la questione è chiara, no? Che diciamo, due terzi dell'elettorato hanno votato di qua, un terzo ha votato Grillo, diciamo così, era per dire, insomma, non è così matematicamente. Invece di fare il governo con il PD e i grillini, che non è riuscito, fanno quest'altro, e facendo quest'altro tutti chiedono che ci siano rappresentati dentro i loro. Voglio dire, è anche abbastanza normale, se fa un governo politico, che sia così. Ora, che sia bene o che sia male è un altro discorso. No, ma perché io non riesco a appassionarmi? Non lo so, non riesco proprio. No, no. Mi viene tutto un pasticcio, perché poi voglio dire, le linee, soprattutto, insomma, uno la pensa in un modo, uno la pensa in un altro. Ora, chi abbia ragione e chi abbia torto sarebbe lungo a dire, ma è un pasticcetto, nel senso che non potranno, cioè lo faranno perché poi due o tre robe le devono fare, però non c'è anima, capito? No, ma ve lo immaginate, non so, Enrico Letta premier, vice premier Alfano, ecco perché questa, poi non lo so, ministro, i ministri potrebbero essere Brunetta da una parte, poi uno di Scelta Civica, mettiamo Mauro, Fassina, Fassina sarebbe il massimo. Brunetta e Fassina, guarda, voglio lo streaming dei consigli dei ministri, no? Con Brunetta e Fassina finiscono a portaceneri in testa, pugni in faccia, non lo so, faranno i consigli dei ministri divisi, faranno un consiglio dei ministri al PDL e quelli del PDL si ritrovano al consiglio non so, a Palazzo Grazioli, del Debbio, e quelli del PD no, guardi, è un problema, perché io verifico una cosa, no, nel mio piccolo osservatorio, e cioè ieri sera, ad esempio, avanti ieri sera, abbiamo chiesto a quelli che intervistiamo e così, no? ma lo volete un governo, non lo volete? Insomma, alla fine la gente dice, ma insomma, si decidano, facciano qualcosa, noi abbiamo bisogno di due o tre cose che ci risolvano, poi facciano un po' il cacchio che vogliono, insomma, questo in sostanza. Il problema è che quelle cose lì, in questa forma qui, non le risolvono, perché certo. Io capisco che o ci va un governo che dice allora, si lotta con Bruxelles, si riapre la spesa pubblica e si fa uno, due, tre, oppure ci va un governo che dice no, si lotta con Bruxelles ma non per aprire la spesa pubblica, si lotta con Bruxelles per altre cose, infrastrutture, così si tiene il rigore e si taglia ma la spesa. Ma su questo devo dire che Enrico Letta ieri ha già detto basta questa cosa dell'austerity, del rigore dell'Europa. Sono linee diverse, non sono certo. Che dice Brunetta e quello che dice Letta. Sì, però certamente, questo è chiaro. Però no, certamente è chiaro, ma non è chiaro proprio a tutti. Ma no, d'altronde come si fa a mettersi d'accordo? Ma non si può, Luisella, ma come pretendi? Voglio dire, ma è chiaro che è un qualcosa che si fa gioco forza in questa situazione, ma non è che si può sperare. In questa ragione del Debbio si fa senza ottenere risultati, perché al di là di davvero unire forze che gli elettori non vogliono, cioè doveva essere la fase della partecipazione finalmente dei cittadini alla cosa pubblica, di seguire le indicazioni che arrivavano dagli italiani, e questo non viene rispettato. Dopodiché si mettono insieme forze che hanno visioni della politica, dell'economia, dei rapporti con l'Europa diametralmente opposte, che se ne sono dette di tutti i colori in campagna elettorale, quindi in realtà neanche con le migliori intenzioni, ammesso che ci sia, secondo me non ci sono, come è stato dimostrato dal governo Monti, riusciranno a trovare degli accordi. Chi lo sa, sta di fatto mettere insieme Fassina e Brunetta. E questo sì, sta di fatto che il ministro tedesco Schäuble ci ha già detto: ah, è facile scaricare, è umano scaricare le colpe su degli altri, ma è sciocco. Cioè ha detto: non scaricate subito le colpe su Berlino. Comunque, sentite, un altro punto è stato quello, abbiamo visto anche un'altra riunione in streaming con quelli del Movimento 5 Stelle di Enrico Letta, che si è dovuto sottoporre anche lui come Bersani, però è andata meglio, pare che sia andata meglio. A un certo punto Letta, col suo fare così un po' da chierichetto, da cattolico molto comprensivo, ha detto questo a quelli del Movimento 5 Stelle: scongelatevi. Ritengo che sia per il bene dell'Italia importante che si scongeli una presenza parlamentare come la vostra, che se rimane congelata in una posizione di no, finisce per frustrare le posizioni, secondo me, su molti temi avanzate e importanti, soprattutto con molto consenso nel Paese, l'avete dimostrato. Sentite, cioè, del debito anche alquanto paraculo, Letta, cioè nel senso, no, perché il modo in cui tenta di coinvolgere quelli del Movimento 5 Stelle. Sì, ma il PD si è talmente scongelato che si è liquefatto. Si è liquefatto adesso, si è liquefatto. No, però è così. Ma si è liquefatto chi? Movimento 5 Stelle. No, del debito che diceva, ma è tutto l'incartamento, sì, capito? Siamo nel pantano, perché voglio dire, noi dopo si era detto il bipolarismo muscolare non va bene perché vabbè, e quelle erano cose che, perché poi le dicevano molto i centristi, perché volevano insomma non il bipolarismo, perché non c'era più spazio se no per loro, no? Questo era il punto vero poi alla fine. E si era detto troppo muscolare, ci vorrebbe più dialogante, io poi non so che voleva dire, ma comunque si era detto così. Ora siamo nel pantano assoluto, sì. Capito? Perché non serve a nulla. Grillo gli dice a Bersani un po' di giorni fa, ne avevamo anche parlato in trasmissione: ascolta, intanto vota Rodotà, che sì, poi vedremo, poi vediamo. Ma è il modo di fare, ma no, dico. Ma infatti, dai, ma poi Rodotà ma no, dai, però Luisella era stato, poi si è scoperto che l'avevano scelto 4.800 persone, sembrava che ci fosse ma un, ma cosa vuol dire? Invece i marini in quanti l'hanno scelto? Ma l'hanno scelto in 20, ma ci piaccia, cioè, o no? Ci piaccia o no, il Presidente della Repubblica lo scelgono i partiti. Quando faremo la riforma presidenziale, per cui lo sceglierà il popolo, ma che devono fare? Cioè, lo devono scegliere quelli lì. È stato scelto un nome di altissimo profilo sul quale continua a non capire perché il Partito Democratico abbia detto di no. Ma perché l'aveva scelto Grillo? È stato anche un cambio di rotta del Movimento 5 Ma perché 5 il PD Stelle? In questo, infatti, è andato allo sfascio. Era stato scelto da Grillo e quindi voleva dire cedere a Grillo a tutto tondo. Ma questo principio, si valutano le persone. Dopodiché sono continuo a essere convinta che al di là di Rodotà si fosse arrivata a un'altra votazione con Prodi, il Movimento 5 Stelle avrebbe votato Prodi. Vabbè, per come è andata e per come è stata gestita il Partito Democratico, non l'ha votato. Comunque, è davvero la liquefazione di un partito. La liquefazione, no, certo. Ma sentite questa invece: dopo il tentativo di scongelatevi, c'è stato anche un piccolo battibecco, Letta Lombardi. Perché la vostra posizione è sempre stata quella: noi diciamo un nome e o voi votate il nostro nome oppure punto. Però sì, cioè a un certo punto uno propone. Qualcuno la chiamerebbe anche coerenza, insomma. L'ho capito, ma con questa coerenza voi non avreste nemmeno eletto il vicepresidente del Parlamento, il questore del Parlamento. È chiara questa cosa? È un metodo che non però attenzione, perché è grazie più importante il metodo dell'obiettivo. Ma questa Roberta Lombardi fa un po'. Il Presidente del Senato è stato votato con i voti del Movimento 5 Stelle. Sì, è il metodo, grazie. Se Didi avesse scelto un buon nome, loro l'avrebbero votato. Sì. Ma comunque a me fa un po' paura questa Roberta Lombardi, è sempre così molto piccata, molto, oh, per carità, molto sicura. Cioè, perché hai capito, la coerenza in Parlamento, se la coerenza e la rigidità sulle posizioni, voi non ci stai e fai la testimonianza, non fai nulla, cioè, hanno rotto anche un po' le balle sti qua. Ecco per dirla la Del Debbio, un piccolo editoriale di Del Debbio, hanno rotto un po' le balle. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi ne entriamo con la segreteria telefonica e Luisella Costamagna e Paolo Del Debbio. 24 mattino. Quando penso che Prodi è di Bologna, sono di Bologna anch'io, ma che cosa abbiamo fatto di male? Ma guarda che il bolognese è allegro, è bello, è solare, è simpatico e mangia bene. Cazzo, abbiamo anche Prodi. Ma porca puttana, ma pensa a te. Dite quel tappo di Brunetta, lingua, lui è come tutti gli altri, come lui non serve, solo alla povera gente. E la giustizia così come va bene. Lo sappiamo quali sono gli intenti suoi di tutto il suo partito. Quella gente sta morendo e loro pensano ancora ai cazzi loro. Vogliono veramente i bastoni. Scusa Milan, io ho scoperto che tu sei la persona più ascoltata in Italia in questo momento. Allora io ti faccio una proposta che potrebbe essere, vabbè, quella di ti diverti troppo a Radio 24 per andare a fare tu il Presidente del Consiglio. Però proponi questo, che ci sia i due Letta, Gianni e Enrico, che facciano una diarchia. Gianni Letta sa tutto quello che vuole Berlusconi, l'altro più o meno forse sa qualcosa quello che vogliono i PD, e a questo punto la finiamo, invece di fare 18 ministri, 24 sottosegretari, due, una diarchia come i vecchi tempi, funziona benissimo. Ciao. Io volevo dire che sono d'accordo col Presidente della Repubblica. I giornalisti dovrebbero lasciar lavorare e non fare i processi alle tensioni, in modo che si possa uscire da questo pantano. Io abito a Melegnano e stamattina sono andata fuori e in Piazza Castello stavano commemorando il 25 aprile. Meno male che non c'era una bandiera del PD, perché io voto quel partito lì. Andare a festeggiare il 25 aprile e vanno con Berlusconi, con tutti i fascisti e illeggibili che ci sono lì. Vabbè, così lo pensa, la pensa questa signora, voci della nostra segreteria telefonica. Mi piaceva quella che diceva che sono il più ascoltato in Italia, che non è vero, ma così mi facevo bello, no? Sì. Mi facevo... Anche la diarchia è bellissima. Sì, ma poi proponeva la diarchia, Letta, lei, vabbè, ma adesso... È così, eccolo, ma anch'io un po' l'ho detto, sì, siamo passati dall'era della nipote di Mubarak all'era del nipote basta, però, sì, però è un po' cattivella, ecco, insomma non volevo ripeterla in onda, l'avevo scritta su Twitter, poi ci proponeva anche di andare al governo, non so, io ci vado, poi mettiamo Luisella Costamagna, vuoi fare la ministra qualcosa? No, ecco. No, guarda, io preferisco... Del debbio ministro della comunicazione, facciamo una bella legge. Ma cosa vuoi che faccia il ministro? Ma no, la comunicazione, facciamo del debbio, va in onda. Ma non diciamo. No, ma volevo dire, mandiamo in onda del debbio su Rete 4 tutto il giorno. Intanto, no, mi basta chiamarmi che faccio. Mattina e sera. Allora, sentite, a proposito di il 25 aprile è morto, ieri, ragazzi, era tutto è morto. Il 25 aprile è morto. Anche se la lettura è... Poi c'era Vendola ha risposto a Grillo così. Lo vorrei dire pacatamente a Beppe Grillo, il quale ogni giorno annuncia la morte di qualcuno o di qualcosa. Oggi ha annunciato la morte del 25 aprile. Non so se gli giova questo ruolo di becchino planetario. Ogni giorno lui fa il certificato di morte, celebra il funerale. Ma come fa a celebrare il funerale del 25 di aprile? Vabbè, insomma, il becchino universale. Si è parlato solo di morte ieri. Morte, becchino. Questo è. E poi, vabbè, e questa è la situazione. A proposito di ministri, che devono essere, politici o tecnici o che? Luisella, a sto punto... Ma a questo punto devono essere politici in pieno, cioè non siamo nel governo tecnico, siamo in un governo completamente politico, devono metterci la faccia i politici. Abbiamo visto com'è andato, ripeto, con il governo Monti, in cui c'era la faccia dei tecnici, c'era la maggioranza politica che decideva in realtà cosa fare, poi l'hanno rinnegato, lo stesso Monti ha rinnegato il suo governo, l'unico che se ne è preso la responsabilità è stato il PD. A questo punto facessero ministri completamente politici, spartendosi le poltrone sulla base della bella, tra virgolette, alleanza che vogliono fare PD-PDL. Sì, ma tra l'altro io per ora ho trascurato la notizia che mette in prima pagina Libero, che è questa, udite, ma sapete, hanno hackerato, cioè hanno tolto, hanno preso, rubato un po' di mail dei grillini. Oggi il Libero titola così: porno ricatto ai grillini. Del debbio, pare che ci siano dei video anche di, dicono di una parlamentare che fa autoerotismo del, del Movimento 5 Stelle. Roba giusta proprio. Roba sua intanto, cioè sì, chi se ne frega. Però pare che siano pronti a buttare in rete sta roba qui, ma a che livello siamo arrivati, voglio dire? Non lo so, ancora qui siamo a un livello, vabbè, di qualche malato che si diverte a fare sta roba, ma insomma... Ma poi che ricatto sarebbe? Cioè, voglio dire, conto è uno trova... Già è sbagliato trovare una mail di uno che dice Beppe Grillo ha fatto questo, ma questa, cioè, voglio dire, gli sono entrati nella mail e hanno preso... avrebbero preso, Luisella, avrebbero preso delle... ci sarebbero dei video veramente hard, secondo Libero, dice, li abbiamo visionati, cioè... Tutto. All'inizio dicevano che era una bufala. Ma oggi no. I parlamentari del Movimento 5 Stelle, se non lo è, è una cosa gravissima. Oggi no, cioè Libero dice l'accertamento nei confronti dei grillini sia davvero inquietante. Non lo so, Libero dice che abbiamo visionato questi video. Comunque, quindi diciamo, ci sono. A me quel che fanno le signore dei grillini o i parlamentari, cioè, non me ne frega nulla e trovo, come dice la Costa Magna, ingiusto, imbarazzante, brutto, totalmente fuori il fare questa roba qua. A me dei grillini interessa quel che dicono. Che fanno il Parlamento. Mi preoccupa moltissimo questa posizione della Lombardia e dice è coerenza star fermi sulle proprie posizioni. Coerenza star fermi sulle proprie posizioni. È irrigidimento. È una posizione stupida in Parlamento. Però non è, in realtà del Parlamento io non fa nulla. Siccome non è un gruppo di Gandhi quelli che sono in Parlamento. È un gruppo di parlamentari. Vabbè, comunque per qualcuno è coerenza, per qualcuno è rigidità. Voglio farvi ascoltare in un minuto questa. Non so se eravate fan di. Non so se la riconoscete. È questa? Ah, sì, certo. Luisella, lo seguivi? Cosa? L'ispettore Derrick. Sì, non molto, non era un appassionato di Derrick. Anche perché adesso scoprirai. Del Debbio lo seguivi? Morto pure lui. Dai, morto pure lui, ma scoperto oggi sui giornali è stato un ex, l'attore che l'ha interpretato, un ex delle SS, ecco. L'ispettore Derrick, un ex delle SS, mannà. Sti tedeschi. Del Debbio. Ma no, veramente, cioè, e oggi sui giornali, tutti i giornali titolano Horst Tapper, che interpretò l'ispettore Derrick, era uno delle SS in gioventù. Vedrai che ora c'è qualcuno che dice o che lo sapeva o che si vedeva. No, si vedeva dall'occhio azzurro, così. Da come fermava i criminali si vedeva che era un ex delle SS. Era evidente. Vi ringrazio, buona giornata, buon weekend a Paolo Del Debbio, Luisella Costamagna, grazie per essere stati con noi in Giornale Radio. Dice anche a Beppe Grillo che Dio è morto. È vero, ma dopo 3 giorni risorge, perché lui questo non l'ha detto oggi. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua alle 7:20 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, siamo pronti alla lettura dei giornali, mentre vi ricordo chi avremo ospiti alle 8:15, gli ospiti per parlare di politica. Ci sarà con noi Deborah Serracchiani, che ha vinto la corsa alle presidenziali in Friuli Venezia Giulia del Partito Democratico, insomma l'immagine di un PD vincente che di questi tempi è abbastanza raro. E poi avremo con noi dalle 8:30 Gregorio Gitti, deputato di Scelta Civica, e Daniela Santanchè, deputata del Popolo della Libertà, per capire se allora partirà o meno questo governo. Enrico Letta oggi si prende una giornata di riposo dopo le consultazioni. Entro domenica, se ci sarà la squadra, verrà presentata al Quirinale la squadra del governo. E allora andiamo a sfogliare i quotidiani.

sia, non dico di precipitare perché non voglio assolutamente né spaventare né creare psicodrammi, dico però che abbiamo bisogno assolutamente di un governo e ovviamente io penso di un governo di un certo tipo, cioè di un governo che abbia uno scopo ben delineato, che abbia dei punti fermi sui quali portare il Parlamento a legiferare e che abbia poi naturalmente, se salvo diciamo così non prenda la strada giusta, cosa che tutti ci auguriamo, abbia comunque un termine entro il quale poi ci vada al voto. Senta, ma lei come lo spiega agli elettori del suo partito? Intanto poi vedremo quello che succede nel Partito Democratico, ma intanto questo abbraccio che qualcuno dice l'abbraccio al caimano, l'inciuccio, sa che hanno rispolverato tutti questi vecchi termini mai abbandonati dalla politica, come lo spiega lei agli elettori del PD? Perché fino a un mese fa si diceva mai con Berlusconi. Ma guarda, io sono una di quelle persone che non solo ha detto mai con Berlusconi, ma che insiste che non è né opportuno né quello che serve al paese. Dico però che abbiamo sbagliato tutto nell'impostare ogni tipo di dialogo, di capacità di far capire le cose alla nostra gente, ai cittadini. Intendo dire che con l'elezione del Presidente della Repubblica, questo governo, cioè lo stesso governo Letta, nasce come un governo del Presidente per quanto mi riguarda. Questo governo del Presidente ha uno scopo e un obiettivo molto preciso. Se riesce a nascere, sarà il governo che ci traghetterà, spero, facendo quello che serve al prossimo governo. Se non riesce a nascere, evidentemente andiamo direttamente alle elezioni e non c'è nessun tipo di abbraccio di alcun tipo, mi pare evidente. No, certo, con però questo voglio dire, è un governo del Presidente, capisce? Non può passare dai partiti, perché i partiti hanno dimostrato di non essere in grado, per mille ragioni, di trovare una soluzione al loro interno. Beh, un governo del Presidente, partiti e forze politiche. Certo, però poi l'esecutivo sarà formato da, immagino, esponenti dei vari partiti, quindi sono loro poi che faranno i consigli dei ministri, dovranno mettersi d'accordo su che cosa? Sulla legge elettorale, sulle riforme il economiche? Il punto è proprio quello, cioè c'è una diversità profonda. Di conseguenza possono mettersi d'accordo soltanto su quelle 4, 5, 10, non lo so, non faccio numeri, cose che servono al paese, sulle quali sono in grado di legiferare. Ecco perché insistevo sullo scopo e sul termine, perché credo che sia l'unico modo per renderlo da una parte comprensibile, dall'altra parte accettabile e spero anche utile, evidentemente. E anche perché credo che in questa logica chi in questo momento ha scelto di non prendersi la responsabilità di governare, mi riferisco in particolare al Movimento 5 Stelle, dovrà prendere una posizione, dovrà decidere se, come dicono, sono pronti a prestarsi al governo su alcuni temi concreti di volta in volta, sarà allora che lo facciano. E allora a questo punto le larghe intese saranno davvero molto larghe. Cioè lei fa anche un appello al 5 Stelle. In ogni caso, 6 mesi, un anno, ma si deve andare a votare. Questa è la vita di questo esecutivo, lei la vede così più o meno? Non... Ma guardi, per come è nato, per come abbiamo passato gli ultimi 2 mesi ormai e per come lo vivono i nostri cittadini, tenuto conto anche di un contesto complicatissimo di crisi che continua a mordere e della quale non vediamo la fine, beh, insomma, io credo che questo sia un governo che deve fare quello che altri non sono riusciti a fare, compreso l'ultimo governo Monti, che in fondo era partito bene, ma che poi più o meno da aprile-maggio dello scorso anno non è riuscito più a far nulla, anche per colpa del Parlamento e anche per incertezze interne. Però no, ma glielo richiedo, sulla vita è vita breve. Questo sì, breve. No, beh, io onestamente in questo momento, se lei me lo chiede, dico assolutamente di sì. Poi sa, se questo è un governo che, pur nascendo tra mille difficoltà, riesce a fare bene il suo compito, riesce a mantenere un governo stabile, riesce anche a dare finalmente delle risposte ai cittadini, ovviamente non sono io a chiedere di che vada a casa. Allora è chiaro, se regge di più, regge di più. Alle condizioni attuali non vedo alternative. Tra i toto ministri, sa che Letta pare vorrebbe tutti i giovani, non ex ministri. Lei per esempio metterebbe una pregiudiziale? Ieri qui il senatore Corradino Mineo ha detto no, beh, Alfano alla giustizia mai, la Gelmini all'istruzione non si potrà mai fare. Per esempio, ecco, visto che la voglio mettere di buon umore, toto ministro che leggi, D'Alema che trovi, ovunque c'è D'Alema. Sì, beh, appunto, ci sono persone che per esperienza e capacità e competenze sono sempre buoni per ogni stagione, però io onestamente credo che questa sia una stagione da tempi sconosciuti e mettere persone già conosciute, alcune di quelle che lei citava, non credo che sarebbe una buona idea, proprio per andare a creare le condizioni, non solo e non tanto che queste persone ci parlino quando si incontrano in Consiglio dei Ministri, cosa che sono convinta anche per capacità personali siano in grado di fare. Il problema è che poi tutto quello che combinano là dentro devono spiegarlo fuori. e devono ricreare le condizioni perché, come è accaduto ieri, era il 25 aprile, insomma, come è accaduto allora, ci sia di nuovo un avvicinamento tra il popolo e le istituzioni democratiche, altrimenti non serve a nulla. Senta, ha visto che nel PD Boccia, per esempio, ha detto chi non la vota è fuori. Lei, a lei piace questo diktat, chi non vota, chi non fa partire il governo fuori dal PD? Ma guardi, mi dà l'occasione di spiegare. Ieri mi hanno fatto una domanda e la domanda era la seguente: se dovesse accadere quello che è accaduto con Prodi, lei vorrebbe che se ne andassero i franchi tiratori? Allora, la mia risposta è assolutamente sì. Ricordo che con Prodi tutti dissero lo votiamo e poi dopo vennero fuori 101 membri del Partito Democratico che votarono in modo diverso. Se accade questo, cioè se platealmente c'è una differenza tra quello che è la decisione presa in modo palese all'interno degli organismi del partito, dei gruppi, e quello che accade poi in aula con il voto segreto, per quanto mi riguarda, da quel momento lì quel gruppo parlamentare non ha senso di esistere, perché la lealtà credo che sia uno dei principi fondanti all'interno di un partito. Però nel segreto delle urne uno può fare quello sì, che vuole, quindi come ma ci mancherebbe, però lei capisce che se uno fa parte di un partito, si è fatto eleggere in un certo contesto, insomma, accetta anche valori, regole e modo di comportarsi. Insomma. Quindi se, non so, se Pippo allora, Civati dice io palesemente non voto la fiducia... No, aspetti, le stavo dicendo questo, se succede la cosa di Prodi non ho dubbi. Viceversa, se c'è qualcuno che la pensa diversamente e lo esprime all'interno degli organismi e con gli organismi si prende una decisione, io credo che insomma legittimamente il dissenso possa essere anche compreso. È accaduto anche per quanto riguarda Marini, e lì si è voluto forzare la mano e abbiamo visto come è andato a finire. Per cui io distinguerei due casi. Però scusi, che differenza c'è? Perché se uno dice, se in tanti dicessero nel PD non votiamo la fiducia e la fiducia non arriva, affosserebbero quei voti, quel governo, e come la mettiamo? Beh, affosserebbero non solo il governo ma anche il PD. Quindi io mi auguro che si assumano responsabilità diverse, insomma ci hanno già provato per due volte, spero che non arrivi la terza, insomma. Io mi auguro però che anche chi dichiara il no riesca a farsi capire, lo dico anche al mio amico Pippo Civati, di cui ho una grandissima stima personale e anche politica. Il no in questo caso deve essere davvero giustificato da motivazioni forti, altrimenti risulterebbe incomprensibile, soprattutto al nostro partito, all'interno del nostro partito. Incomprensibile però vuol dire fuori dal PD, cioè perché la discriminante poi è questa, quindi non puoi far parte decidono del partito. Decidono i gruppi parlamentari, per quanto mi riguarda, non sta al presidente della regione Firenze Giulia a chiedere l'esclusione di una persona. Senta, a questo proposito mi faccio fare un'ultima domanda proprio da presidente. Lei ha detto ho vinto perché non ho ascoltato nessuno del partito negli ultimi due mesi, cioè, beh, una bella simpatica considerazione, insomma, di quello che succede a Roma. Guardi, è una considerazione, purtroppo è una constatazione di fatto. Dopo le elezioni politiche io non ho più sentito nessuno da Roma che si interessasse a quello che stava avvenendo nel profondo nord, e posso dire dopo gli ultimi eventi che purtroppo cadevano proprio quasi in coincidenza con le due giornate di voto, che ho vinto nonostante il PD. Non è che mi faccia piacere dirlo, però credo davvero che sia una semplice constatazione di fatto. Mi auguro che si voglia recuperare anche il rapporto con i territori, lo dico al mio partito, insomma, perché poi alla fine insomma, siamo quelli che stanno qui che ci mettono la faccia a dover spiegare le ragioni, a volte comprensibili, a volte meno, delle decisioni che vengono prese a Roma. Vi faccio fare due domande flash sul Friuli. Intanto, ha senso che ci sia ancora lo statuto speciale? Friuli Venezia Giulia, mi perdoni. Ha senso che il Friuli Venezia Giulia abbia ancora lo statuto speciale nel 2013? Sì, se serve all'Italia. Nel senso che visto che noi abbiamo tantissime competenze, sgraviamo quindi lo Stato, le faccio un esempio, il servizio sanitario regionale è a totale carico della regione e non riceve un euro dallo Stato italiano, siamo anche disponibili a restituirlo, ma non so se è il caso in questo momento. Siamo quindi come dire, consapevoli che la nostra specialità deve servire al Paese e che quindi dobbiamo impegnarci perché utilizzandola bene in modo saggio e anche con buon senso serva alla crescita del paese, serva anche a non pesare sullo Stato italiano. E l'ultima domanda è questa: anche in quella regione è scoppiato due mesi fa uno scandalo, un'inchiesta sui rimborsi dei consiglieri regionali che andrà avanti e vedremo come andrà avanti, ma non c'è regione che sia libera da questi tipi di inchieste. Lei cosa può fare in concreto, a dire, per stroncare questo fenomeno dei rimborsi che vengono utilizzati, pare, per spese proprie? Beh, intanto non ho messo in lista nessuno che avesse anche soltanto il sospetto di un utilizzo sbagliato dei fondi, per cui ho preteso, e devo dire anche ringraziare, devo anche ringraziare chi ha compreso, ho preteso dei passi indietro. Per quanto riguarda le decisioni adesso, abbiamo già formato, diciamo così, un disegno di legge che depositeremo a breve, che riguarda, non appena insomma saremo operativi, che riguarda i costi della politica e il riordino anche di tutta la materia legata ai rimborsi dei gruppi consiliari. Naturalmente in un mondo normale e ordinato non sarebbe necessario avere quelle regole, siccome pare che il mondo non sia né così normale né così ordinato, ci diamo delle regole con delle griglie molto precise, per cui, per farle un esempio, non sono più rimborsabili le spese per cene e pranzi, insomma. Ecco, almeno regole molto chiare e molto trasparenti. Era una delle voci più gettonate, pare, insomma, le cene e i pranzi. Vabbè, intanto staremo a vedere come va a finire. La ringrazio, Presidente Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani del Partito Democratico, che è stata con noi dopo la pubblicità e il meteo. Allora parleremo anche con voi, è 800 24 00 24, non ho dato il numero di telefono ma le linee sono aperte, ripeto 800 24 00 24. Ce la farà a nascere il governo Enrico Letta? Soprattutto ce la faranno a mettersi d'accordo il nodo IMU? Pare sia uno dei nodi principali. Berlusconi, anche in una serie di interviste oggi sui giornali, dice l'IMU va tolta e devono ascoltare i nostri 8 punti, e soprattutto sull'economia. Ne parleremo con Daniela Santanchè e con Gregorio Gitti, 2 deputati, tra poco. 24 mattino. Allora, dopo aver fatto 2 chiacchiere con Deborah Serracchiani e anche un po' analizzato lo psicodramma del PD, avete sentito, ho detto ho vinto nonostante il PD. Siamo a cercare di capire anche con voi, cari ascoltatori, 800 24 00 24, se siamo pronti, se siete pronti a un governo di larghe intese. Devo dire, anche gli italiani, anche la politica italiana spesso è stata una politica rissosa, di contrapposizioni nette. Secondo voi PD, PDL, Scelta Civica sono pronti a sedersi attorno a un tavolo, a fare un governo insieme, a dire beh, appianiamo un attimo le differenze, pensiamo all'economia, al lavoro, alle aziende che chiudono, alle famiglie che non hanno da arrivare molto in molti casi alla fine del mese, pensiamo alle riforme da fare, alla legge elettorale, a tagliare i parlamentari, a abolire le province? Sono in grado, secondo voi, di fare questa cosa, di mettersi insieme, appianare le divergenze e pensare al bene del paese? Ne vogliamo parlare con l'onorevole Daniela Santanchè. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei, libertà. A tutti. Saluto anche Gregorio Gitti, onorevole di Scelta Civica. Buongiorno e ben ritrovato anche a lei, Gitti, eccoci. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, non vi offendete se vi danno degli inciucisti, Santanchè, degli inciucisti, dei insomma, gente che da una parte abbracciano il caimano, dall'altra vogliono, cioè dalla vostra, dettare le condizioni? Vi offendete oppure sono altri tempi? Ma io non mi offendo, perché l'inciuccio direi che è previsto dalla Costituzione, per fare una semplificazione, sia per il Presidente della Repubblica, che i padri costituenti avevano scritto che ci volevano 2/3 per le prime votazioni e poi maggioranza semplice dopo, sia per fare i governi, perché bisogna solo saper far di conto. Per avere la fiducia un governo deve avere i numeri, e in questo caso, siccome le elezioni non le ha vinte nessuno, per poter governare il paese, che in un momento di emergenza, perché la crisi economica morde e fa male tutti i giorni alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori, per cui l'emergenza ci chiama tutti a fare un grande sforzo, a superare le divisioni, le contrapposizioni, i rancori, perché dobbiamo mettere al centro gli italiani e l'Italia. Gli italiani e l'Italia. E quindi questa è una condizione che deve per forza vederci impegnati, per forza vederci responsabili. Non so, la stessa domanda, onorevole Gitti, la giro a lei, poi ho delle considerazioni. Non so se ha già letto il Corriere della Sera di oggi, che riporta un'intervista, tutti i quotidiani per la verità intervistano Berlusconi, che è di ritorno dagli Stati Uniti, ma non so se l'ha già letto. Prima intanto la considerazione sull'inciucista, Gitti. Ma la formula non mi piace. Napolitano ha raccomandato sia le forze politiche, ma si è permesso anche di rivolgersi ai media, di non usare formule di questo tipo. Sono d'accordo invece con il richiamo di Daniela Santanchè alla Costituzione e al concetto di maggioranza. La maggioranza è una maggioranza che deve tutelare la rappresentatività, come è stato giustamente ricordato, il Presidente della Repubblica viene eletto con una maggioranza qualificata, proprio perché è garante dell'unità. In questo momento Scelta Civica ha raccomandato un metodo di lavoro che è il metodo del confronto, della collaborazione al servizio del Paese. Il governo Letta sta lavorando su questo, possibile governo Letta. Enrico Letta sta lavorando con grande impegno e determinazione per assicurare le basi politiche a questo obiettivo. Noi lo sosteniamo con estrema convinzione. E questo sì. Però allora mettiamo un punto che è quello più dibattuto dai giornali, due punti anzi. Il primo è l'IMU, che è la questione più dibattuta. Berlusconi è stato il cavallo di battaglia in campagna elettorale, dice al primo Consiglio dei Ministri lo toglieremo, ha sempre detto così, e quindi vuole per rispetto ai propri elettori mantenere questa promessa. Gitti oggi sul Corriere della Sera una domanda su Saccomanni possibile all'economia, Berlusconi risponde così: Saccomanni no, abbiamo già dato coi tecnici, quindi parla del governo di cui lei è espressione politica. Veniamo da un governo che ha fatto disastri col suo eccesso di rigore e ha dato input terroristici fissando target micidiali. Ecco, questo è un po', per carità, come la derubrichiamo? A intervista, a dichiarazione, la prendiamo, la lasciamo? È una trattativa. Berlusconi sta alzando il prezzo della sua entrata al governo. La campagna elettorale è finita, ho colto il tono giusto nelle parole di Daniela Santanchè, non voglio ripeterlo la seconda volta. Il governo Monti ha in un anno, dal febbraio dell'anno scorso al febbraio del 2013, negoziato col Consiglio d'Europa la deroga rispetto al patto di stabilità. Nessun governo nei precedenti 10 anni c'era riuscito. Questa deroga consente oggi di poter investire risorse per lo sviluppo del Paese. Ma lo sa bene anche Berlusconi e infatti oggi possiamo costruire un governo che consenta al Paese di approvare provvedimenti economici in grado di aiutare le famiglie e le imprese. Lo sa benissimo, sta semplicemente negoziando. Santanchè, sta negoziando Berlusconi, e le faccio una domanda sull'IMU diretta. Cioè, voi chiedete che al primo Consiglio dei Ministri l'IMU venga abolita? Così è stato quello che avete detto in campagna elettorale? No, guardi, non l'abbiamo detto solo in campagna elettorale, l'ha detto anche ieri la nostra delegazione all'incaricato, al presidente incaricato, e mi sembra anche che il presidente incaricato Letta abbia dato un'assoluta disponibilità, perché Letta, che ha una straordinaria possibilità di far ripartire questo paese insieme a quello che se nascerà sarà il suo governo, e quindi di dare uno shock economico. Ha una straordinaria opportunità Enrico Letta, non soltanto per risolvere i problemi in Italia degli italiani, ma per avere un governo forte in Europa, perché non voglio star qua a discutere, ripeto, oggi dobbiamo avere tutti la casacca della nazionale e lasciare perdere la maglia della propria squadra. Quello che ha fatto il governo Monti è sotto gli occhi di tutti, siamo in una situazione drammatica. E quindi noi diciamo che quei tecnici abbiamo già dato, perché i tecnici sono anche quelli degli esodati, perché ci dimentichiamo degli esodati, che sono tutte quelle persone che non hanno né la pensione e né il lavoro e che sono state messe migliaia di famiglie in ginocchio. Ma io voglio andare oltre, voglio che nasca questo governo col nostro impegno, noi continuiamo sul cammino della responsabilità, ma sia chiaro che non è che il governo deve nascere a tutti i costi, perché vede, noi siamo tutti responsabili, parlo per il PDL, ma lo siamo ancora di più in quel patto sacro che abbiamo con gli elettori. Quindi mi dica i punti sui quali non siete disposti a cedere. Non sono negoziabili, non è negoziabile l'IMU, perché è una patrimoniale che è stata messa su un bene che è il primario bene delle famiglie, che è la casa. Quindi sulla prima casa l'IMU non si deve pagare. Ma al primo Consiglio dei Ministri? Al primo Consiglio dei Ministri? Se non è il primo, sarà il secondo, perché non è una questione che adesso c'è il timing, deve essere un timing velocissimo. Quindi noi vogliamo avere la certezza che a giugno gli italiani sulla prima casa non paghino l'IMU. prima cosa, vogliamo avere la certezza che per quegli imprenditori che assumono giovani, visto che in Italia la disoccupazione dei giovani è intorno al 40% e se andiamo al sud arriviamo a numeri ancora più da brivido, che chi assume dei giovani non paga le tasse, zero tasse. Noi vogliamo sburocratizzare nel senso che chi vuole aprire un'impresa, un esercizio commerciale, non deve avere prima le autorizzazioni, ma giusto i controlli. Insomma, questi sono punti, L'Europa non negoziabili. È un punto fondamentale, l'Europa. Noi dobbiamo avere un governo forte che vada in Europa e rinegozi. Sì, Schäuble, ha sentito che Schäuble ha già detto è bello, è sciocco, ma umanamente comprensibile scaricare sui tedeschi le colpe degli altri. Insomma, già, vabbè, ma qui è già partita la consueta. Però questi sono i punti. Un altro punto che vi rimente, glielo dico chiaro, ma Letta ieri è stato chiarissimo da questo punto di vista. Non ci devono essere né veti e né pregiudizi su nessuno di noi, perché ricordiamoci le parole ieri di qualche esponente del PDL nei confronti di qualcuno della nostra classe. No, del PD, sì, beh certo, senatore Mineo era qui ai nostri confronti, ai nostri microfoni, a dire mai Alfano a giustizia interno e mai la Gelmini all'istruzione. Vabbè, ma queste sono schermaglie, se vuole, politiche. Però, onorevole Gitti, prima del traffico. Comunque, i tecnici noi non li metteremo, questo sia chiaro. Certo, questo sì. Ci sono delle, ecco, la questione, onorevole Gitti, è sempre anche questa da rubricare ad alzare il prezzo, però la questione dell'IMU, per esempio, è molto chiara, cioè Monti in campagna elettorale aveva detto l'IMU non si può così toccare, dove troviamo poi i soldi? E qua l'onorevole Santanchè dice è un punto dirimente, cioè se a giugno o il primo, il secondo, il terzo Consiglio dei Ministri non viene tolta, salta tutto. Allora, le tasse sono come i figli, la paternità è incerta ma la madre è certa. Monti non l'ha inventata l'IMU, l'ha ereditata. Rispetto alla, diciamo così, concezione del governo Berlusconi, che ai tempi definiva l'IMU, no, come la tassa federale, ma ripeto, sono d'accordo con Santanchè, è inutile polemizzare sul passato, dobbiamo trovare delle soluzioni per il futuro. Ebbene, sull'IMU credo che ci possa essere lo spazio per, come dire, sulla prima casa eliminarla e aumentare le detrazioni familiari, così come ha fatto il governo Monti, anche se in campagna elettorale nessuno lo ricordava. Sul tema della restituzione credo che Enrico Letta stia lavorando, ripeto, se questo è un punto dirimente, ma io non credo che sia un punto dirimente quando bastano 100 basis points di spread per farne almeno due volte e mezzo l'IMU, cioè quando lo Stato deve pagare un tasso di interesse elevato di 100 punti, perde in termini numerici, no, per costi ulteriori qualcosa come molto più dei 4 miliardi di istituzione. Cerchiamo di evitare, come dire, la facile sì, ma è una questione anche formuletta. Però ecco, mi scusi, è una questione sulla restituzione, credo che Enrico Letta stia studiando qualcosa, predisponendo qualche strumento di sicuro impatto. Credo che si stia facendo ogni sforzo possibile, ma vorrei ricordare, oltre ai temi che sono stati poc'anzi evocati, che c'è, così almeno Letta, incontrando le delegazioni, ha evocato il tema non solo dei provvedimenti di impatto economico-sociale, non solo il tema dell'Europa, ma anche il tema della politica. Ebbene, non possiamo ridurci più in questo modo. Noi dobbiamo chiaramente, nell'appoggio al governo, evidenziare anche quello che è un percorso di riforma istituzionale. Ma sulle riforme, guardi, ripartiamo da qui da un attimo, dopo le informazioni sul traffico, anche perché la questione, quando io l'ho sentito, il taglio delle province, insomma, mi sono, devo dire, in maniera un po' irriverente, mi sono un po' sbellicato dalle risate quando l'ho sentito pronunciare da Enrico Letta, ma dopo il traffico siamo qui. Allora, siamo qui, 8:48 minuti, gli ultimi 6 minuti, anzi 8 minuti di 24 mattino. Sentiamo anche qualche ascoltatore. Rino da Potenza, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie di avermi chiamato. Ah, una regione dove se ne stanno scoprendo di simpatiche negli ultimi giorni, eh? Ma ormai è una moda, non ci faccio nemmeno più parte. Ah, sì, cioè rubano sui rimborsi, ma chi se ne frega. Non questo, non questo, non, io non mi meraviglio di questo, vabbè, assolutamente. Allora, volevo dire semplicemente questo, io sono un elettore di sinistra, non ho mai dato un voto alla destra, però sono molto contento di quello che sta succedendo, nel senso, chiamavano il giugio, non il giugio, insomma questa unione... Larghe intese. Sono molto contento perché nel delirio di onnipotenza di Berlusconi forse sta perdendo la capacità di capire che si trova nella stessa situazione del PD quando pochi mesi fa era quasi vincente, troppo vincente. Sì. E allora io, elettore di sinistra, stranissimamente, vorrei dare un'idea, ecco, alla Santanchè, di dire a Berlusconi che non faccia questa intesa, vada subito alle elezioni, perché se invece fanno il governo non potrà mantenere quello che ha detto, sì, e poi tante altre cose, farà gli stessi errori del PD. Quando ci saranno le elezioni, gli elettori lo puniranno. Ah, lei dice, contrariamente a quello che dicono i sondaggi, lei, Rino da Potenza, dice Berlusconi non faccia questo accordo, vada alle elezioni perché verrà punito dagli elettori. Daniela Santanchè, questa è la lettura di Rino. Ma ha ragione, Potenza. Io devo dire che se noi in questo momento non pensassimo al paese, pensassimo... al partito, come, perché vede la differenza in questo ma come ha ragione per... però Rino dice che verrebbe scusi, punito Berlusconi dagli elettori, verrebbe, no, io le dico no, ha ragione sul fatto, no, in maniera diversa, perché vede la differenza tra Bersani e Berlusconi in questo periodo è che Bersani si è comportato da uomo di partito, Berlusconi da uomo di Stato. Allora voglio dire, le elezioni non ci punirebbero, gli elettori ci voterebbero, però io credo che questo sarebbe proprio la via estrema, perché noi invece ce la metteremo tutta per cercare di dare un governo a questo paese, tenendo conto di quel rapporto sacro con gli elettori ai quali noi non possiamo non fare le cose che abbiamo detto il Presidente lo so, Berlusconi. Però se deve essere una sintesi, se ognuno vuol tenere le cose che ha detto di voler fare in campagna elettorale, se ognuno in una sintesi, qualcuno deve sacrificare qualcosa, perché altrimenti... Ma guarda che ieri Enrico Letta, siccome voglio dire ha ben presente quali sono le emergenze del Paese, mi è parso che fosse evidente al presidente incaricato che le nostre ricette sono forse le migliori. Sì, certo, però se uno, sono le migliori. Cioè, se uno vuole A, uno B, uno C, o A, B e C, forse è difficile farlo, se soprattutto alcune di queste lettere sono in antitesi. Comunque, insomma, staremo a vedere. Intanto vorrei sentire Salvatore da Napoli. Buongiorno, Salvatore. Buongiorno, senta, volevo dire solo una cosa. Io sono preoccupato perché non vedo che fra tutti i politici che si alternano in televisione, alla radio, anche adesso, non c'è una se io dico, sono disposti veramente a sacrificare le loro poltrone, a non vedere soltanto il loro stato perché per il bene del paese, o è sempre la solita storia di che noi adesso stiamo parlando con persone che sono sempre in vista, ma ci sono tanti altri politici regionali, dei partiti, che non pensano altro che al loro piccolo orticello. Pensano al loro orticello, allora lei viene poche risposte, sente poche risposte concrete. Sentite Enrico Letta, il premier incaricato, chissà se formerà il governo, quando l'ho sentita io in maniera irriverente, devo dire, lo so, mi sono scoppiato a ridere. Scelte che in tempi certi cambino la Costituzione, riducano il numero dei parlamentari, aboliscano le province, creino un Senato delle regioni e diano la possibilità... Onorevole Gitti, ridurre i parlamentari, abolire le province, ma io capisco, bisogna dare il massimo della fiducia, ma capisce che gli italiani non possono più credere a queste cose, cioè non ci possono credere più, perché dovrebbero crederci questa volta? Glielo dico su un piano personale, sì. Facevo tutt'altro nella vita. Ho creduto di dovermi esporre per non indulgere nel vizio italiano del lamento, ma per cercare di impegnarci affinché questa cosa finalmente accada. Sì, ma non è un lamento fine a se stessa, no, è un lamento. No, ma se mi fa finire, anche l'altra volta, sì, anche prima mi aveva interrotto. Sì, dica. Ecco, io credo che questa sia una finestra straordinaria. questo governo di larghe intese, oltre ai provvedimenti economici e sociali che servono al Paese, si dà un programma che è quello peraltro stabilito nel memorandum istituzionale dei saggi voluto da Napolitano, che consentirà di fare queste riforme. Io credo che tutte le forze politiche che si impegneranno ad appoggiare il futuro governo Letta sanno che nell'ambito della Costituzione e nell'ambito istituzionale della legislazione ordinaria, in particolare sulla legge elettorale, devono dare un segnale forte. E quindi si farà. Però mi scusi, Lo si farà anche mediante quella convenzione di cui Letta e Napolitano. Ma d'accordo, però non è un lamento fine a se stesso, è un lamento giustificato dal fatto che da vent'anni si sentono queste cose. Allora uno dice, solo per il dubbio, perché stavolta dovremmo crederci? Perché? Perché stavolta? Napolitano ha usato una parola forte. Nel suo discorso, sottolineo questo, ha sottolineato l'eccezionalità della sua rielezione. E non solo ha detto ho il potere di sciogliere il Parlamento, ha detto mi dimetto se le forze politiche non saranno in grado quindi, di fare quindi il tutti a casa. Sant'Anche, ho 30 secondi, lei che perché dovremmo crederci questa volta? Cioè, qual è la memoria corta? Perché guardi che la diminuzione dei parlamentari, forse lei si è dimenticato che noi, PDL, l'avevamo già fatto, sono gli italiani che attraverso un referendum hanno bocciato quella nostra riforma costituzionale. Ma era una riforma completa e complessa, però le province, l'abolizione delle province è una cosa che bisogna fare. Lo so. Perché noi, guardi, abbiamo tutti una possibilità straordinaria, lo dico con franchezza. Questa è l'ultima possibilità che tutti insieme abbiamo, perché è l'ultima possibilità che hanno gli italiani. Allora, o abbiamo la responsabilità, la capacità, la forza e anche, se mi consente, la passione, perché, ripeto, dobbiamo mettere al centro il nostro paese, oppure è finito. Non è che è finito, lo so, ho capito, ma è chiaro, ma gli italiani, io registro questa cosa, ci credono poco, dopo vent'anni di promesse ci credono poco. In ogni caso, ottimismo, staremo a vedere. Grazie a Daniela Sant'Anche, grazie a Gregorio Gitti, ci sentiamo lunedì mattina alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.